Cantine di Franciacorta. Benvenuti, siamo a Torbiato in Franciacorta per una nuova tappa. Ci ospita la cantina e ristorante La Torre, podere della famiglia Corsini, che sorge ai piedi della Torre di Torbiato, vicino Adro. Il titolare, giovanissimo, 30 anni, Massimo Corsini, ci racconta la sua cantina. Ho 30 anni, sono un giovane imprenditore, insomma, e dal 2001 abbiamo iniziato questa attività. Inizialmente, i primi anni, erano produzioni di circa 5.000 bottiglie tra Fermi e Franciacorta. A oggi siamo arrivati a un totale di 40-45.000 bottiglie, di cui la maggior parte comunque è produzione Franciacorta, e a oggi abbiamo queste quattro tipologie di Franciacorta, che è un Brut, base, un Satin, un Rosé e un millesimato. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.